Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Benvenuti, è la settimana numero 19 e questo è tempo di sondaggi. Già ce n'è uno in corso che non chiudo, visto i tempi dilatati portati dal podcasting. Lascio passare ancora una settimana a riguardo del modo che voi avete di ascoltare Eclettica via etere, quello più tradizionale, via satellite, via podcasting o via streaming. Ce n'è un altro però che si è chiuso nello spazio di un weekend o poco più. Bisogna avere qualche vantaggio ed essere parte della lista nera, no? Questo sondaggio è partito sabato, avevo bisogno delle risposte entro lunedì, poi capirete con il passare delle settimane come mai queste risposte servivano, e quindi ho fatto richiesta quando ho mandato la playlist della scorsa settimana. In pratica la domanda era: qual è la percezione che avete ascoltando Eclettica? Quando vennero presentati, lui fece una battuta, sperando di piacere. Lei rise a crepapelle, sperando di piacere. Poi se ne tornarono a casa, in macchina, ognuno per conto suo, lo sguardo fisso davanti a sé, la stessa identica smorfia sul viso. A quello che li aveva presentati, nessuno dei due piaceva troppo, anche se faceva finta di sì, visto che ci teneva tanto a mantenere sempre buoni rapporti con tutti. Sai, non si sa mai, in fondo. O invece sì. Questo era l'incipit di Brevi interviste con uomini schifosi, una storia ridotta all'osso della vita post-industriale, di David Foster Wallace. È una dolce resa e non trovo pace così, ti ritrovo qui. E forse il meglio di me non l'hai visto mai. E scopro che i miei alibi sono inutili. Scappo solo per poi ritornare. Schivo i colpi dei ricordi per non farmi male. Ma nel provare a dimenticare, faccio finta che qualcosa ti è rimasto. Ricordo le mie bugie e le tue verità che confondo con le mie, e parlo ancora di te, io che odio perdere. Solo per poi ritornare, schivo i colpi dei ricordi per non farmi male, ma nel provare a dimenticare, faccio finta che qualcosa ti è rimasto, e scappo solo per poi ritornare, schivo i colpi dei ricordi per non farmi male. Ma nel provare a dimenticare, faccio finta che qualcosa ti è rimasto di me. Ma porca puttana! Tu vuoi capire, sì o no, che questo matrimonio si deve fare per il bene di tutta la famiglia? Ma papà, come posso sposare uno che non conosco? Presto lo conoscerai. E se è brutto? Guarda, se è brutto. Che significa? Non sarà Alain Delon, no. Non sarà Omar Sharifoli, ma è sempre un nipote di Monsignore. I found something crying, it was my soul. I fed it milk so it wouldn't grow old. We crossed the borderline at dawn and woke up in a field of corn. The farmer told me I was late. I better start oiling the gate. He said that those who rush shall fall, but I don't. Eclettica è questo, scoprire anche canzoni magari non sentendosele annunciare da chi dovrebbe farlo per ruolo così, diciamo, perlomeno tradizionale. Ecco, Eclettica anche da questo punto di vista non è poi così tradizionale, visto che avete la possibilità di recuperare, se non ricevere direttamente nella vostra casella di posta le playlist settimana per settimana, a volte io mi prendo queste libertà. Però vi voglio dire che cosa vi siete ascoltati come primo brano quest'oggi, ovvero sia Giuliano Dottori al suo esordio per Il Re Non Si Diverte. Ci siamo ascoltati il brano dal titolo Alibi. Vediamo, non ho ancora avuto modo di controllarlo, lo faccio adesso assieme a voi, se questa settimana ho dei biglietti da regalarvi. Sì, ce ne ho. Per i Giardini di Miró il 16 al Rainbow di Milano, il 17 all'Auditorium Flog di Firenze, My Brightest Diamond il 19 alla Casa 139 di Milano e il 20 allo Spazio 211 di Torino. Ecco, questo è quanto ho a disposizione. Il modo per vincere, lo sapete, scrivere a giulio@radiorockfm.com. Ed ora Chris and Carla, ovvero sia gli Ex Walkabouts.

lui viene dal seminario. E prendiamo due fave con un bicione. Ma insomma, non ti piacerebbe che il tuo papà divenga, non so, ministro degli estrangeroli come Kissingeroli? Io già mi vedo dentro la TV a 48 pollici quando alla fine Nicoletto Orsomando gli dirà: abbiamo trasmesso Tribuna Politica. Ha parlato per voi il ministro degli estrangeroli, Pasqualino Abete. Ma... Luigino, Luigino, amore mio, cosa sono questi brutti versacci? Si chiamano Home, proprio così come casa, si chiamano Home e sono un trio Britain Roll italiano, ce li siamo ascoltati anche come prima pillola di eclettica di questa settimana. Il rock and roll ha compiuto 50 anni, loro ne hanno 3, sono un trio e sono rock and roll. Britain Roll vi dicevo, ma vado a leggere un po' del loro curriculum vitae. Nelle loro canzoni si sente la lezione dei Rolling Stones, della Swing in London, dei Beatles, degli Animals, Encore the Doors, Kings, Jimi Hendrix, ma anche le colonne sonore di Quentin Tarantino, Tarantino, e le poesie di Bukowski fanno la loro parte. Amano i 60s, amano i 70s, non sono superati, vecchi, non fanno revival, sono freschi, sono moderni. Beh, chiaramente questo è autoincensatorio, comunque ci permette di avere un'idea di questo trio che, fra l'altro, non mi ricordo se già l'ho detto, è completamente italiano. Perfect Born Actress è il titolo del brano che ci siamo ascoltati per questo esordio pubblicato da Manzanillas assieme a Goodfellas. E prima parte di Eclettica che si chiude con le atmosfere pacifiche, ipnotiche, lievemente passionali, sognanti, profondamente spirituali, avvincenti e anche un po' aliene, degli Ajagas, gruppo che fa riferimento alla popolazione dei Sami dal nord dell'Europa, dalle terre della Lapponia, un disco che è prodotto da Po Andreas Mjos, che già ha lavorato con Jaga Jazzist e Susan and the Magical Orchestra, disco che esce per la Ever Records e che noi ci ascoltiamo con questo brano dal titolo Moon Jamun. Fine della prima parte.